Grazie Alfredo, per te scrivo e non mi scorderò. Il tuo gesto in quella piazza in mezzo al colonnato, che ha nascosto la tua storia sotto l'umertà, non sa certo con Cristo e con chi ha liberato. Nella terra di Sicilia calda e profumata, nasci con un cuore e un corpo, una sessualità. Non puoi scegliere tra fede e omosessualità. Sei l'unico respiro, sei una voce disperata. E brucerai, tu brucerai, per dare il fuoco alle parole canterai, perché ogni uomo possa respirare amore, e griderai per chi non ce l'ha fatta a ridere e sognare, per insulti di quei bulli tu pregherai. Antiche al centro stesso delle civiltà, città eterna, Roma è fredda in questo nuovo anno. Tu cammini verso il centro, la sacralità, piazza San Pietro con Bernini ora ti accoglieranno. Tu chiedevi un dialogo con quell'autorità, forse con il tempo qualche cosa cambierà. Grazie per il gesto che ci hai regalato Alfredo, nessun omosessuale si scorderà il tuo credo. E brucerai, tu brucerai, per dare fuoco alle parole canterai, perché ogni cuore possa battere e pulsare, e griderai perché nessuna legge possa punire l'amore per Andrea, Roberto e tutti gli altri, pregherai. E brucerai, tu brucerai, per dare fuoco alle parole, e canterai perché ogni cuore possa battere e pulsare, e griderai perché nessuna legge possa punire l'amore per Andrea, Roberto e tutti gli altri, pregherai. Brucerai, tu brucerai, per dare fuoco alle parole, e canterai perché ogni cuore possa battere e pulsare, e griderai perché nessuna legge ostacoli l'amore per Andrea, Roberto e tutti gli altri, pregherai. Brucerai, brucerai. La la la la la la.